Canale 10, canale 10, canale 10. Qualcuno all'ascolto? CQ 10. Vedo me. Dove Gianni? Vabbè, fra. Ah, siamo entrati a casa. Ho aperto un po' di finestra che mi sembra che sia più fresco pure, dai, oggi. Oggi sta un po' meglio, dai. Tira un po' di arietta. Rimane allucinante, non si può dire già. Oggi fa un po' meglio da queste parti, non so dalle tue. No, ieri anch'io, no, fino alle 4 non ero a lavoro, ma c'era da morire. Dalle 4 in poi un po' è rinfrescato, dai, più o meno come adesso la temperatura. Oggi Alghero era un po' così, una giornata un po' anonima, anche qualche gocciolina è caduta, no, proprio 4 gocce affrontate. E poi c'era un po' di caldo, ma niente di che. Qua era un po' credo greba greba, però poi alla fine non ha fatto niente. Adesso poi ha tirato un po' d'arietta, dai, si sta decisamente meglio, con le finestre aperte. Ma meglio sicuramente di ieri. Sì, poi tu sei anche più aperto, più esposto magari. Io qua ho il giardino, una parte, sono a metà come altezza, là. Sono un piano intermedio. Ne ho una su e una giù. Tu sei invece un po' più in alto, vero? Cazzo, tutta la via a Cabassoli. La casa è esposta tutto il giorno al sole. E quindi si può immaginare le mura a caso rilasciano il calore poi durante la giornata e diventa un forno, poi sopra il terrazzo calpestabile è catramato, quindi si fa il botto, dai. Dovete approfittare a fare il 110, l'avrebbero isolata, c'è in facciata che sul tetto. Non ho mai compreso nulla, mi pare una mezza truffa, che cosa? A parte che sto sentendo cose di aziende, imprese, insomma, che non sono così contente, dai. Ci vuole di beccare una ditta seria. No, io ho amici che, caspita, gli hanno fatto la casa gratis, cioè gratis, allucinante. Quando ti capiterà più fare sia la facciata, addirittura gli stanno facendo il cappotto, quello ventilato. E poi addirittura a mattoni faccia a vista, tipo il placcaggio, la casa, quindi non avrà più bisogno di fare facciate così varie. No, un bel lavoro stanno facendo, tutto gratis, addirittura l'ascensore glielo portano fino ai garaggi, tutto gratis. Il tetto, solo i poggioli loro non toccano, quello se vuoi te li fai a parte, se no li lasci come sono, infissi nuovi, lui aveva già vetri camera, tolti quelli e messi quelli di nuova generazione, non sembra vero. Vabbè, dai, che faccio di nare vieni sci, se no le cose non si fanno, già lo sai, quindi non lo so, non mi ha mai personalmente, per quello che so, non mi ha mai ispirato così tanto. Infatti anche qua non si sa che decisione prendere. E ormai non è che ci sia tanto tempo, perché devi fare il 30% dei lavori entro, prima era giugno, mi sa che sia entro settembre adesso. Infatti vedi i cantieri che ne fanno un pezzo, no? Arrivano al 30% e poi mollano e vanno a farne altri per accaparrarsi già i lavori, dai, gli appalti. No, questo amico mio ha preso un'impresa, si chiama Ticca, mi sembra, una delle più grosse forse qua a Sassari, ma in un attimo, wow, sono già entrati a testa bassa, gli infissi già cambiati, adesso stanno iniziando le facciate, ponteggio, cose varie. Invece altri amici hanno avuto qualche problemino, non hanno mai iniziato, però soli tu non devi anticipare praticamente, tu non metti nulla, neanche un centesimo, se vuoi. Sì, e poi sicuramente ci stanno sguazzando le imprese, quelle che vendono i prodotti, sono raddoppiati o triplicati i prodotti dei pannelli, se riesci anche a trovare, a volte è difficile anche trovare quei pannelli isolanti. Non lo so, ti ripeto, personalmente non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, poi per carità, è sempre una mia come si dice, una mia visione delle cose. Poi per il resto, se le cose qualcuno le ha sperimentate prima e non funzionato, ben venga. E niente, quindi presumo che qua sia tutto in alto mare, e visto come stanno andando le cose, ma mi barino, non c'è quasi nulla. È che qua abbiamo fatto modifiche interne, capito? Quindi per fare quella roba lì deve essere perfetto, non ci deve essere una virgola fuori posto, quindi un tramezzo, una porta spostata, niente, non ci deve essere niente, sennò è un casino. Qua bene o male abbiamo modificato tutti, quindi sennò l'avremmo fatto anche noi quella roba lì. Poi altri colleghi hanno fatto il bonus facciata, la facciata al 90%, cioè il 10% lo paghi tu e il 90% te lo paga lo Stato praticamente. Anche lì fatto già il lavoro, eseguito, addirittura l'ha fatto fare a un'impresa che lui conosceva, che era del padre del genero, capito? Cioè il padre del ragazzo della figlia, praticamente l'impresa gliel'ha fatta, quindi meglio di così. Ho capito. Ascolta, per passare di pane in frasca, ma i lavori nella tratta come proseguono? Bene? Così, un po' rilento anche lì, ma non arriva materiale a volte, adesso hanno cambiato ditta, ma la qualità delle copertine in cemento sono un bel scadenti, non lo so. Ce ne sono cavolate ancora, adesso vediamo poi quando passeranno gli ispettori se glielo approvano. Dico, ma sono non sono solo lavori sulla strada ferrata, sono anche altri lavori di messa in sicurezza, altre cose. No, questi stanno passando roba elettrica praticamente, devono passare, prima fanno i cavidotti e poi passeranno i cavi all'interno. Ce n'è da fare ancora, hanno fatto, non è terminato, da San Giorgio fino ad Alghero, c'è da fare poi tutto il resto fino a Sassari, ma ripeto, lì non è ancora da finire quel pezzo. Ho capito, adesso riguardo alle corse, ma questo lavoro praticamente, come si dice, limita le corse, oppure è un lavoro che si può fare anche a prescindere dalle corse? No, ci sono, adesso momentaneamente ci sono due soppressioni dei treni, dalle 8.45 alle 12.30, poi ci sono quattro treni, quelli degli studenti, dei lavoratori, e poi di nuovo dalle 14.45 fino alle 18.30, un'altra interruzione di linea. Quindi in quelle due interruzioni non ci sono treni, quindi usciamo con le macchine operatrici, fanno lavori, salgono sopra con gli scavatori, quelli piccolini là. Ho capito. No, pensavo che determinati lavori si potessero fare anche con la tratta aperta, capito? Che non fossero direttamente collegati, dai. È che non c'è proprio lo spazio fisico, non ci sta uno scavatore a fianco, il treno non può passare. In certi punti sì, dove ci sono degli slag, degli espropri, si può anche lavorare, diciamo, con i treni, ma diversamente no, addirittura lavorano, loro si mettono sopra il binario e poi col braccio scavano parallelamente alla ferrovia. Ho capito, perché è già da diversi mesi che ci sono questi pullman sostitutivi, no, come ti ho detto, e quindi volevo farmi un'idea affinché dura questa cosa. Qui si mangeranno il panettone, forse anche la colomba del prossimo anno. Adesso da giugno dovrebbero togliere anche quei quattro treni che ci sono, come finiscono gli studenti, come chiudono le scuole, vorrebbero togliere anche quelle quattro corse per dargli ancora più possibilità di lavorare. Ho capito. Andare. Troia. Te l'ho detto, che ce l'ho praticamente sotto la finestra. E ogni tanto questo rumore, insomma, inizia poi adesso voltato, sai, con le finestre aperte. E io poi il motore acceso, che dico dato, inizia un po' a rompere le palle, dai. C'è la sfortuna che proprio hanno fatto lì quelli stalli, proprio sotto casa tua lì. Che fare segnalazione, protestare, fare qualcosa, sennò non c'è altra soluzione, mi sembra già. Ne stavamo parlando infatti l'altro giorno. ne ho accennato, là, perché praticamente il capotreno invece di viaggiare con i treni, quando non ci sono le corse, viaggiano insieme al pullman. Sì, sì, già li vedo, quindi no. Conosco più o meno i movimenti, dai. Quindi per trovare, diciamo, i passeggeri, la vettura fresca la lasciano accesa, perché sennò poi entrare in un veicolo bollente, insomma, non è bello, però come dici tu, vai a discapito di altre cose. Eh beh, certo, insomma. Un conto, cioè, 5 minuti, 2 minuti, ma se stai tipo un quarto d'ora, 20 minuti, cioè, quasi tutti i giorni, insomma. Ti ripeto, non sono tutti, Adesso, se la cosa persiste e continua a dare fastidio, faccio anche, sono costretto a fare dei video, eventualmente, perché, ti ripeto, alcuni sono silenziosi, altri invece fanno proprio vedo casino. Insomma, se poi ognuno fa come ti piace, capisco che c'è caldo, capisco tutto quello che vuoi, però insomma, se questa cosa, come stavo, da quanto ho capito, dura parecchio, insomma, la pazienza poi a un certo punto inizia a scricchiolare. No, sono cose lunghe, sì, ancora ce n'è per parecchi mesi, ripeto, non credo che ce la facciano a finire entro l'anno, dai. È che quando c'è caldo non devi aprire, anche perché ti entra l'aria calda. Io di giorno tengo tutto chiuso, addirittura se posso abbasso anche le avvolgibili, proprio per tenere più fresco. E poi quando vedo che fuori sta abbassando la temperatura rispetto a dentro casa, allora apro. Non so, Fra, già lo faccio anch'io, però cazzo, c'è un momento dove non gira ossigeno, cazzo, è pesante, dai. Perché i miei soci fanno così, loro sentono quest'aria che entra, magari ti ghiaccia un po' il sudore addosso, però l'aria che sta entrando è a 40 gradi. A te ti sembra nel momento che stia tirando aria, però l'aria nel frattempo ti scalda i muri poi la notte te lo buttano addosso, quel caldo che hanno accumulato durante il giorno. Bello. Buonasera a tutti, dai, ma qua anche lui mi ha dato. Meno male che... Che c'è qualcuno, ho detto. Vabbè, io purtroppo sono assente perché... Questo è l'orario mio. Ho saputo che hai dismesso l'attività. Vabbè, ma anch'io mi sono andato poco e niente, non so Gianni. Ciao Luca, buonasera. Già era un giorno che non ti sentivo. Crocro, allora tutto bene? Stavo parlando l'altro giorno con Lucianito, conosce Luciano, quello c'ha la trattoria. Che c'ha? La trattoria. Trattoria Luciano, sarebbe, non, sì, più preciso. È una trattoria Luciano, dove ti conosce, era un CB prima. Luciano. C'è una trattoria, ma è via università? Bravo, proprio lui, sì. Ho capito, che aveva un circolo prima, via la Marmora, credo, lui è, sì. C'è un altro locale, non lo so se era via la Marmora, questo non te lo so dire, ti dai una palla, comunque ti conosci, mi ha detto, era un CB. Ah, sì, se è quello che stai dicendo io, sì. Ecco, eri un CB, no? Non lo sapevo, che come si faceva a chiamare, non ti la metti? Non mi ricordo, me l'ha detto nominativo, ma non me ne ricordo. Eia, sì, ho capito. No, oia. Adesso vabbè, non... Il cognome non mi sovviene, comunque... Dovrebbe essere lui, sì, già, no, adesso vabbè, come hai detto Luciano, ero bisogno di il bar Luciano qua, Zussinco. Anch'io mi sono pensato allo Zussinco. No, senti quel cognome, aspetta. E lui, già ho capito chi è, sì, già mi viene in mente. Lui è Cabaredo, va giù, crocro, avanti Fra. Sì, sto aspettando che ti ricordi il cognome, è Luca. Cadetto. Ehi, affermativo, già è lui. Ma si ma lui ti conosce, tua cosa c'è un problema, si chiama questa cazzuccia mi fai. Gianmario, come si chiama quel ragazzo, quello che faceva la motosega? Si chiamava Mezza Cartuccia, mi pare, al baracchino. Vi siete sovrappopolati? Ho detto, al baracchino magari si chiamava Mezza Cartuccia. Ah, boh. Mazzo, Vivi a guri guru. Ebbè, io devo andare a cacare. Allora, buonasera a tutti. Ebbè, a tu. Andiamo, andiamo. Buonasera anche a te. Quindi piano piano, mentre la gioca, niente, scendimi. Come arriva un po' di umidità. Volevo dire a Gianni, il profeta. Ti ricordi a Gianmario? Che era Gianmario, si chiamava quello che faceva la motosega, l'amico nostro. Pierpaolo. Ma Pierpaolo, è Pierpaolo, Gianmario, te. Anche lui aveva aperto una specie di macelleria lì a Corso, che poi ti cucinava anche la roba. Non c'è più lì, no? Boh, dite la verità, siamo un sacco di tempo non ci vediamo. Qualche anno fa l'avevo intravisto, adesso mi ricordo se era la sorella che aveva aperto un piccolo bar in corso Vittorio Emanuele, all'altezza della vecchia UPI. Ci eravamo incrociati lì, ma adesso la verità sono un po' che non lo vedo, quindi non so cosa dirti. Lì, bravo, il posto è proprio quello. Come entravi in quella piazzetta, lì c'era la macelleria, e poi adiacente, proprio attaccato, ti cucinavano la roba, tu sceglievi la roba e poi te la mandavano in cucina, capito? Quello che tu sceglievi. Però ti parlo di qualche anno fa, ci avevamo mangiato una volta, sono andato per provare, poi mi sa che non c'è più, non so. E un periodo ho lavorato anche a Caniga, la macelleria che c'è attaccata a Columbano, qualche anno prima, là. Gestiva quella macelleria lì. Avanti, Anto. Gappa gappa, avevo rotto a Canica, ma quale? Quella macelleria, ma tu hai lavorato? Quella che vendeva, che cucinava anche roba? No, c'è attaccata con un vano, al tabacchino, al bar, c'è un supermercato, un alimentare, dai, e all'interno c'era una macelleria e lui ce l'aveva in gestione, capito? Ah, ho capito. Avanti, Luca. Luca non c'è. Luca! Ani buon Pinocchi, ora, e andava. Ne senti, ventolame, ne senti? E faccio un ventilatore acceso che fa caldi, no? E adesso scaldiamo troppo l'ambiente. Allora passate, fate, Chi è avanti? Buonasera. Sì, Cristian. Buonasera. Cristian? Dimmi, caro chiaro. Ebbene, allora. Non è gaggio, you no? Know. Io c'è un cernaio aperto pure, non caso a murino anche. Poi c'è pure il vento acceso anche. Cosa vai tu? Ti sento pure il vento acceso, come mai? Ti lasciale fare. Cazzo, noi non abbiamo di gaggio. C'è un cernaio aperto più il ventilatore acceso. Ah, bravo. E chi c'è il ruota, oltre che Roberto? Ci sono io, c'è Gianello Profetta e Franco. C'era anche Luca. E Luca. Ciao Cristian, buonasera, ben entrato. Buonasera a tutti. Sì, ciao Cristian, ben sentito. Macchina, sì. Gappa. Zona? Pesanito. Ok. No problema per ascoltarti qua. Vabbè, già non siamo lontani. E in realtà siamo due passi, Sì. E che antenna c'hai in macchina? Dimmi. Che tipo di antenna usi in macchina? Una lume da 1,5 metri. Magnetica o attaccata proprio alla lamiera? Magnetica. A base di una della frustanella dell'assidio. No, va bene. Per adesso non ho problemi ad ascoltarti. Guarda, la base è quella piatta della frustanella dell'assidio, la base. No, non la conosco. Io ne ho un paio di. Una un po' grande, vecchia delle anni 80. Peserà 4-5 kg. E poi ne una più piccolina invece, dai. Dalla base è ben resistente, posso garantire che sono sceso a Cagliari, questa antenna qui, sul tetto a Cagliari, ci sono fatte a tachimetro, l'ho fatta. Se usi poi quelle antenne a filo in acciaio, giusto? Sì, è un filo da 1,5 metri più o meno, si è all'incirca. Quelle tagliano bene l'aria, io una volta invece mi si è staccata, e non ero neanche velocissimo, sui 120-130, nel rettilineo di Olmedo. Avevo attaccata la frustanera, che era pesante come antenna, alta 1,70, 1,80, caricata. Mi sono dimenticato, si è staccata, meno male mi hanno staccato il vetro. È ammaccato leggermente sotto il vetro, ma appena. Oh, quella c'è la casa da 1,20 m, quella c'è la casa, questa nera anche. Ma però non lo uso mai, che non mi piace. Ma ormai questi in acciaio vanno meglio, sono più pratiche. Le pieghi, le metti in macchina, nel cofano e ciccia, dai. Avanti Gianni. Eia, io ce l'ho, adesso non so se sia la frusta nera, da 1,75 m ce l'ho piazzata su in terrazzo, non mi ricordo se era della Lemma o dell'Assidio. Delucidatemi voi. No, forse la mia era Assidio, non mi ricordo. Sì, era alta, mi ricordo, era all'altezza di una persona. L'ho data a Natalino, mi pare. Frusta nera e Sirio. Eia, con la classica attacco alla cappotta, la levettina per stringere, per inclinarla. Ce l'ho montata su in terrazzo, guarda, l'ho collegata all'altra radio, giusto per non lasciarla scollegata lì. A me mi si era spaccata l'attacco lì, poi l'avevo modificata, gli avevo messo una molla sotto, che modificavi la lunghezza, poi non riuscivi più a accordarla, un casino, dai. Vediamo un po', Antonio. Eia, te la giubisca, già. C'è un carriere del parcheggio. Luca. Cos'è che hai visto, Antonio? No, le antenne, le ho viste con le antenne di Gianni. Ah, prima c'erano quelli lì, andavano alla grande perché molto performanti. E che antenna era? Questa che stavo dicendo, la frusta nera. Ah, sì. Era tutta caricata, dall'inizio alla fine, era tutta caricata. Ma dice che ne esistevano di due versioni diverse. Non lo so. La mia è tutta caricata. Sì, sotto la gomma nera, diciamo, la parte plastificata, c'era tutto l'avvolgimento dalla punta fino a terra, dai, fino alla base. E poi la regolazione delle stazionarie in punta. Esatto, e poi il mollo all'inizio dell'attacco. Spostandolo di qualche millimetro si possono regolare le stazionarie. Sì, c'era lo stilo, 10-15 centimetri. È tipo un filo di cosa? Di boomerang. Uguale praticamente. È vero. Uguale, l'antenna sembrava proprio quella lì, però immaginatela più alta, 1,70 m, 1,80 m. Ah, sai che pure ce l'ho avuta anche io in passato. No, io mi ricordo da Alghero avevo un B150, un lineare attaccato, ma mi ascoltavo tranquillamente a Sassari. Non so quanto tenga, però andava. E mi sembra un minimo 500 watt teneva, minimo. Non te lo so dire. Così mi ricordo, mia grande linea. Vabbè, già me la cambia l'antenna per la macchina, dai, l'ho già vista. Io mi ricordo che ce l'avevo, ce l'ho ancora in deposito la basetta. Avevo una basetta della Siltel, l'attaccavamo lì, quella lì, si pompava. Ah, io ho provato da Alghero, addirittura la base magnetica arrivava più forte dell'antenna collegata alla staffa dietro la ruota di scorta della macchina, capito? Arrivava meglio la magnetica. Ci mancherebbe altro. Per uscire bene dovete metterla sul tetto, sì, però collegata alla lamiera, allora ancora meglio. Però a volte per non fare buchi ti arrangi. Io buchi in macchina non ne faccio, vai tranquillo. E infatti ho messo questa staffa che va passa dietro la ruota di scorta della macchina. Cioè io la ruota ce l'ho attaccata al portellone, là. Ho sagomato una staffa e poi lì gli ho attaccato l'antenna, proprio per non bucare la macchina. La base magnetica su non la posso mettere perché la capota ha queste specie di righe, no? Per rinforzare la capota. E non c'è una superficie piana. È ondulata, dai. E c'è una specie di rinforzo delle pieghe, delle modanature, delle pieghe. Vediamo un po' se è entrato Luca. Niente, Gianni. Eia, dopo hai dato tempo, è entrato. Ha dato l'Urbi e Torbi e se n'è andato. L'acqua santa ci ha dato. Però vado anch'io da qua sola, se lo volete. Ma lo c'hai? Qua santo, anch'io vado se lo volete, ma... già l'abbiamo un po' tutti, credo. È soprattutto io, fidati. Vabbè, dai. Sei misani, diceva nonno. Vado ogni 3x2 la macchina in officina io, è alternatore, è motore di avviamento, è un tubo dell'acqua, è ma che cacchien. Grazie, come intendi, Semmo? No, io cavo sempre acqua nel serbatoio, acqua nel serbatoio. Non c'è un tubo dell'acqua, era appunto, me l'ha proprio sotto alla pompa del legnatore proprio. Allora tu le balle quando la macchina ti lascia a piedi, e ti già, così ti è scoglionato, diciamo, volgarmente. Ma non è che l'ho riparata, ho perso i modici, non molto, però tra le scatole passate quel tubo. Poi questi motori oggi non c'è più spazio di niente. No, il tubo rimaneva sotto la pompa dell'iniezione appunto delle multijet, sotto, vicino proprio al valvole GR. Sì, sì, il motore multijet, lo monta anche mio figlio, c'è un Opel, monta il motore Fiat, multijet, 1300. Auguri. No, grazie a Dio. Sai come l'hanno rovinato il motore? Col filtro antiparticolato. Ma anche quella c'è un paio di buchi e abbiamo sistemato tutto. Ma io qua non ce l'ho, va tranquillo. Ma questo l'ha fatto, ma finché la usavo io andava bene, che facevo strada lunga. Come l'ha usata lui in città, è scoppiato il manicotto dalla turbina, si è intasato il filtro antiparticolato e è saltato tutto, l'ha lasciato a piedi. Cioè, a piedi, oddio, è andata in recovery, ti permette di andare piano piano. Sì, lo fa, io io però non ce l'ho perché non ce l'ho, filtro antiparticolato, grazie a Dio. È una scatola, Da quando gli ho fatto quei tre forellini, addirittura neanche centralina abbiamo modificato. Va, che meraviglia, non ha chiesto più lavaggio, nulla, è diventata una macchina normale. La revisione passa tranquillamente. Allora va bene, lasciala così, non tocca più nuda. No, infatti, perché il meccanico voleva dire, no, bisogna modificare la centralina, lascia tutto così, l'ha detto, che già va bene. Guarda, la mia, è 70 cavalli, grazie a Dio, 190 le fa ancora, non ho problemi, Andiamo, andiamo, Cateriano, Mi, tu là, dove mi? Dai, mi stavo mettendo in ordine. 16 volte ti abbiamo rilanciato. Perdo un attimo, c'è il volume basso, un attimino, dai, sono qua adesso, e beh, Bobolì. Oi, vabbè. Ciao, Cristian. Ciao, Luca. E tanto. Allora mi ha fatto una cantata. Stai andando? Dopo. Oh, sono un bel sacco qua. Poi te si è fatta anche male. Stavo assaltato stasera. Praticamente c'è la zampa dietro bloccata. C'è bloccata, zoppica, là. Prima non riusciva a camminare, poi però per ci sta riprendendo. E chi è disattento su gatti di cane, va? Se ti faccio male lei, ma per forza è disattenta. Cazzo, è drogata peggio del padrone. Se tu qua, ma tu visto come tanto ne sei tolto il braccio. E beata lì, e bene. Ciao Anto, ciao Luca. Non so, sono entrato a gamba tesa, là, non so chi c'è. Ho sentito solo la voce di Luca. E qua cuomane quel cane. Ha sentito la mia voce, sei entrato perché sei innamorato della mia voce, capito? Guarda che ti ho visto, occhio. Ma la prova ti è sbagliato, Natalia, ma com'è che era silenzioso? E lui ha dormito lì. Come te, non oggi compreso? La chiamata che mi hai fatto al cellulare. Non ti ho capito. Se puoi ripetere, per cortesia. Ho detto, l'altro giorno mi hai chiamato alle 11 di notte, quasi mezzanotte era. Perché non ti volevo far dormire? Grazie, mi hai fatto la telefonata. Drogato. Boh, questa gente, ciao Natale. Ciao Cri. Ciao Natale. Ciao Franco, ben sentito. Dai, io vi saluto. C'è anche Gianni, il profeta. Mangia qualcosa, dai, un abbraccio a tutti. Riprendi Gianni. Ehi, ciao Natalino. Dai Fra, ci sentiamo nel prossimo. Io, giusto per non farmi mancare niente, mi sto bevendo una buona birra Bavaria ghiacciata. Alla faccia vostra. Salute comunque. Salute. Ho bevuto oggi la birra San Martino. È buona, Io una bassa bella fresca. Hai bevuto la vette voi? Per salutare, me ne sto andando. C'ho un piede gonfio, mi si è gonfiato il piede e sto andando a riposarmelo, dai. Io ho bevuto quella birra, è buona. Ehi, Natali, dai. Se vuoi riaccendere nel caso, dai. Magari se trovi qualcuno più tardi. Già siamo qua, dai, comunque. Buon proseguimento. Ciao, ciao, Gianni. Sono entrato solo per salutare, dai. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, Natali. Ciao a todos. Abbiamo tu, questa birra San Martino, come l'hai trovata? Come cazzo si chiama? Quello Madre in Sardegna, quello che c'è dove c'è il collabore, dove c'è uscita una volta, alla spina l'ho presa, buona, ti dico molto buona, ti dico, rimane artigianale, rimane. Non so, io ho bevuto, molto prima che, guarda, la prima che ho bevuto è quella lì, che l'ho assaggiato. Che acqua, comunque è buona, la verità. Rimane molto diverso dalle altre. Quando è uscita sempre la San Martino, te lo ricordi? Ma qualche mese fa, penso. Di più qualche mese fa, Però è buona. L'ho bevuta appena che è uscita in produzione. Artigianale rimane? So, un amico lavora a San Martino io, per un paio di amici. Ah, buona la verità. Gianni, prendi il microfono. Eia. Comunque, la verità si liglia già con questa calura, questa Bavaria da fresca, già ci scende bene lo stesso, dai. Eia, è certo che ci scende. Mi mancate l'altro, o no? Ehi, meglio di Crusa, dai. È buona comunque quella Bavaria. Io l'ho assaggiato olandese. O Corona. Made in Holland, olandese. Luca, buona di Parigi. Avanti a chi tocca. Luca, che fine hai fatto? Franco. Oh, si è bucato con Lugani, poverino. Ma Franco non c'è più. No, Franco ha chiuso, ha salutato. No, anche la Bavaria è buona, è olandese, l'ho bevuta anche io. Ricky lo usa già anda, però l'hanno arruinata. Ma quando la piglia dall'Arica hanno arruinato tutto. Fatto non bella. Cosa? Fatto non bella. Vabbè, è piacevole, non è buona. Ma io bevo poca, solo in estate e basta. E la birra San Martino, questo è un bel. Vabbè, tipo stasera, mica, poi c'è la platamona, un panino, poi le birrette me le faccio. Scappa, allo circolo non birani, se non mi avrei abituista. Io non so dove c'è una San Martino. Cosa? Io vado in un circolo che c'è una San Martino. Dove? Al CRCS. Dov'è RCS? Vado al Poligono, al Centro Sportivo. Ah, sì. Capito. Lui ce l'ha, perché abbiamo in comune con quello della San Martino. No, adesso non posso, ce l'ha in via Grazia Redda, dove vado io. Ma io non ci vengo io, che portaccio pacchetta. No, dove vado io è tranquillo. E quello non ti preoccupare. Non ne faccio io karaoke mio, ma c'è la produttore, c'è la festa oggi. Cosa hai detto che non ne fai karaoke? No, io karaoke non ci voglio più al karaoke, ho deciso. E fa cosa? Perché non mi piace. Non ti piace che non sai cantare magari. Ma io che canto, logico che mi piace. Tu non sai cantare, io so cantare, ma tranquillo. Allora, se non sa cantare non può dire che non gli piace. Io cantavo nel coro, mi della chiesa. Ah, vabbè. Cosa ne so io? Cioè, non puoi dire che non ti piace. No, allora io la penso così. Quando uno gli piace la musica, non può dire che non ti piace cosa. Magari non ti piace l'ambiente, ma non è che non ti piace un karaoke, perché se tu sai cantare ti deve piacere per forza, non lo so, questa è la legge della musica, poi non può piacerti, non può piacerti l'ambiente, punto. La musica mi è piaciuta tutta quanta, dalla classica, indica, tutto ascolto la musica, tutto l'ascolto io. Ah, va bene, va bene, non sapevo cantarmi nel coro. Da konnte ich mich jetzt auch nicht drüber beschweren, die Bahn. La mia ex ragazza si è diplomata in flotta attraverso il pianoforte. Adesso a Roma, suonando a Roma nell'orchestra. Vabbè. Meglio così comunque. Figurati allora, se vedi musica. Ha dato l'esame con Chopin di pianoforte. Cazzo, allora è brava. E dillo alla RAI se l'ha voluta. Non lo so chi potrebbe essere. Non la conosci. Non è sarda? No, è sarda, è sarda. E il padre è siciliano. Ah, sicuramente c'è il cognome, non c'è il cognome di qua. Esatto, c'è un cognome che è unico nel suo paese. Buono, non so. Però già, mi sono divertiti. Certo. Avanti, già. Eia. Oi. Ah, che barba, che noia. Dice domenica così. Oi. Mamma mia. Roba di calore. Anzi, oggi sta un po' meglio, dai. No, oggi sta veramente meglio adesso. Si respira fuori. Sono stato una roba prima di pranzo, mi raggio di là, dai, era croccante. No, tu pensa stanotte ho dormito, mi sembra, 2 ore, e dopo mi sono svegliato e ho messo pompa il calore, a freddo. In camera avevo 34 gradi, l'ho portata a 20 gradi. Prezzo? Non riuscivo più neanche a respirare al caldo. Guarda, io, quando è? Ieri mattina. Sono entrato alla Comeback, cazzo, fuori per i 35 gradi, sono entrato a fare la spesa, dentro c'era l'aria condizionata a palla. Cazzo, come sono uscito, che mi è arrivata la passatesca a fare il caldo, mi sta venendo un coccolone, mi sono dovuto busare. Ma si immagina, lo fa anche a me molto spesso. Ok, dai. Io vi devo lasciare, ci risentiamo, ciao Antu, non tornare se no piove. Ciao Anthony, buona serata. C'è anche Luca, Lugariello, magari sta ascoltando, ha abbassato il volume, Bobo. Riso è meglio di mutande al fresco. Ah no, in giro in casa con un nudo, no vabbè, a parte gli scherzi, se da solo si può fare. No, io giro, diciamo, in boxer a casa, vivo con i miei genitori, però nudo non c'esco nudo a casa. No, vabbè, adesso è una battuta, no, con un gaggio, quando è da solo si può pure burare con un nudo. A volte mi sta per la pelle, però dal caldo, ma però là, ho avuto tutta la parola, però che dopo non ho, sono carne cruda. Va bene, dai, mi sa che chiudo anch'io, dai, intanto, che ore sono? Le 9, boh, qualche filmettino così, e niente, giusto per conciliare un po' di sonno, dai. Dai, ti saluto, Cristian, ci sentiamo alle prossime. Allora, guarda, io faccio una cosa, chiudo pure io così, poi vado a casa, dove c'è mio padre, poi per la tua mona, panino, birretta, e sono tranquillo. Un figurone, beviti la birretta anche da parte mia, alla tua salute, dai. Buona serata, salutone agli ascoltoni, a Lugariero sei ancora in onda, con l'ascolto e ci sentiamo alle prossime, dai. Buona serata. Ciao, alle prossime, dai. Ciao, auf Wiedersehen. Andiamo bene, andiamo bene. Eigentlich müsste man sowas erwarten, wenn du irgendwo so asiatisch gehst, wenn du mal so, ne? Ich hab mal...